E allora ben trovati e ben trovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, siete a Entropia Massima come ogni lunedì sera e vi teniamo compagnia con le nostre puntate su scienza e tecnologia, economia, ambiente. Ecco, oggi proprio infatti è la volta di economia e ambiente, in una puntata che in realtà dovevamo fare due o tre volte fa e che non siamo riusciti a organizzare per varie vicissitudini, quarantene ed altri disastri del genere. La recuperiamo oggi, c'è con noi Alberto che ha preparato come di consueto questo ciclo speciale sui dati ambientali e aveva riportato gli ultimi dati a gennaio, ma oggi abbiamo addirittura un aggiornamento a febbraio, visto che appunto siamo andati in onda tre settimane dopo il momento in cui li aveva presi per elaborarli, quindi ci ha fatto un ulteriore aggiornamento. Gli cedo quindi decisamente la parola per cominciare anche questa puntata. Bene. Allora, il dato più importante che il 2021 è stato il quinto anno più caldo dall'inizio delle rilevazioni e quindi stiamo ancora in questo gruppo di 7-8 anni che sono stati più caldi di tutte le rilevazioni, e questo si è verificato questo 2021 malgrado la presenza di una corrente fredda, di aria fredda, che si chiama La Niña. E quindi se non ci fosse stata La Niña e ci fosse stato El Niño, cioè quella calda, la corrente calda, avremmo sicuramente ottenuto dei risultati ancora più pesanti. La temperatura media globale, attenzione, io sottolineo sempre che media, è a 1,1-1,2, quindi è la prima volta che esce questo dato 1,2, quindi ci stiamo sempre più avvicinando a questo 1,5 che a livello internazionale del gruppo di tutti i paesi eccetera è considerato la soglia da non superare. Questo quindi stiamo sempre parlando delle temperature medie, il che significa che invece quando dopo parleremo degli eventi estremi capirete che ci sono dei dati relativi a altre zone del pianeta che sono molto molto più impressionanti di questo dato medio che viene utilizzato. Le emissioni di CO2 in atmosfera hanno raggiunto dei 414,3 parti per milione, quindi continuiamo a procedere con quasi 2 parti per milione in più ogni anno, allontanandoci sempre di più da quel livello di 350 parti per milione che era considerato quello adatto per la sopravvivenza della popolazione umana sul pianeta. E in più ci sono stati a parte le temperature medie, ci sono stati dei record di temperature alta in Alaska, negli Stati Uniti, isola di Kodiak, 19,4 gradi, la più alta di sempre nel mese di dicembre. Quindi questa sarebbe la temperatura di quel territorio, di quella zona in un determinato mese, mentre la temperatura media è quella media per il pianeta. E quindi si nasconde un po', molto, troppo secondo me, si nascondono troppo i livelli estremi che si verificano. Stesso discorso a Onslow, nell'ovest dell'Australia, sono stati registrati 50,7 gradi. E nello stesso paese, il 18 gennaio, i gradi erano 45,4. Quindi, come capite, un caldo estremamente spinto. E Argentina, cioè dall'altra parte del pianeta, un'ondata di caldo con livelli minimi a 26 gradi, ma la massima è arrivata a 46 gradi. Quindi, in sostanza, noi abbiamo un aumento molto consistente della temperatura nel 2021 per il sesto anno consecutivo, fino a 800 metri di profondità, sto parlando dei mari, il che significa che c'è un riscaldamento della fascia, diciamo, della superficie dei mari estremamente elevato e che è crescente. E qui c'è la fonte, dice, come se nel mare fossero fatte esplodere 7 bombe atomiche al giorno per ogni secondo per un anno. Cioè, quindi, in sostanza, un numero di atomiche estremamente rilevante. Ovviamente i mari sono molto estesi sul pianeta, però significa dare un po' l'idea di che cosa sta succedendo nella superficie dei mari. Beh sì, 800 metri, 800 metri di profondità, in effetti è 800 metri, è proprio tutta la fascia dove ci sono più pesci, eccetera, esatto. Insomma, è la parte essenziale. Soprattutto temo che non ci siano molti dati più di a profondità maggiori, perché dalle fonti che scruto ogni giorno, in pratica dicono tutti che non si riesce ad arrivare a più di una certa profondità per i rilevamenti di temperatura. Esatto. Allora, quindi problema che per 1,8 miliardi di persone è in questi giorni, cioè questa, la temperatura di questi giorni rappresenta il giorno più caldo della loro vita. Cioè tutte le persone esistenti, 1,8 miliardi, stanno in zone in cui questi dati che vi ho fornito sono il livello massimo che hanno sperimentato, magari hanno 20-30 anni, eccetera. Significa che questa è la loro esperienza di vita più significativa, che è un dato che dovrebbe far riflettere. Poi, per questi motivi, aumenta il volume delle acque dei mari, cosa che significa alzare il livello dei mari, avere degli effetti molto pesanti sulle isole, ma anche sulle spiagge, quindi tutte le coste in sostanza, e come risultato ha alimentato anche quelle punte di caldo molto elevato registrate in Sicilia nel mese di agosto del 21. Quindi questa è la indicazione. Poi ci sono le emissioni globali di Amazon, questo per dare un'informazione più di dettaglio, nel 2020 però sono state di 60 milioni di tonnellate di CO2, pare a un settimo delle emissioni di tutta l'Italia nel 2019. Quindi una sola impresa multinazionale che fa consegne, quindi consuma benzina, eccetera, eccetera, rappresenta una quota molto elevata delle emissioni. Inoltre, per quanto riguarda, oltre alla CO2, il metano è ormai arrivato a oltre 1.900 parti per miliardo nel settembre del 2021, cioè il valore più alto nei 40 anni di rilevazioni. Quindi non è solo la CO2 che alimenta il riscaldamento globale, ma anche il metano. Quindi, in sostanza, ci sono anche dei dati per lo smog nelle aree metropolitane, cioè l'86% della popolazione sfora i livelli massimi previsti dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità di parti per di PM 2,5, cioè quelle rilevazioni che facciamo dello smog, che si fanno continuamente anche a Roma, nei contesti urbani. L'86% della popolazione vive nello smog, no? Cioè in livelli di smog non superiori a quelli previsti come livelli massimi consigliati dall'OMS, il che significa 1,8 milioni di morti sempre per il solo smog nel 2019. Veniamo a un altro aspetto, perché questi sono finora i dati sul riscaldamento globale. Veniamo a quelli che vengono ormai definiti come eventi estremi, cioè sono dei fenomeni meteorologici, non strettamente climatici, fanno parte del clima ma sono più legati alle cosiddette stagioni o comunque a quello che ne rimane, e ci sono la definizione, c'è la definizione di tornado e la differenza che sono praticamente delle trombe d'acqua, e dall'altra parte ci sono i cicloni, che invece sono un po' diversi perché sono più veloci, però hanno e girano, cioè girano su se stessi, però al centro c'è un occhio calmo, cioè dove non c'è, e senza nubi, quindi hanno una conformazione completamente diversa. Questa è la differenza fra i tornado e le trombe d'acqua, e i cicloni. Quello che è importante è che negli Stati Uniti ormai i tornado sono 1200 all'anno, e a dicembre nel Kentucky ce ne sono stati 6, uno appresso all'altro, che hanno, come dire, drenato, distrutto una superficie, una striscia di terra larga 350 chilometri, e hanno distrutto due città. Non so se è chiaro, cioè questo un gruppo di tornado negli Stati Uniti è stata una cosa assolutamente non solo non prevista, ma comunque mai verificatasi prima. Anche con morti, no? Sì, perché 80 morti, almeno 80 morti. Nelle Filippine, sempre a metà dicembre, questo non a gennaio, c'è stato un tifone con i venti a 195 km orari, non so se vi è chiaro quello che significa esattamente, con 300 morti, centinaia di migliaia di vittime tra feriti e sfollati, 480.000 case distrutte. Però non ci siamo fatti mancare niente neanche qui in Italia, cioè a Rossiglione, a Ponente Ligure, nell'ottobre 2021 sono caduti oltre 800 mm di pioggia in 24 ore, che è un record rispetto a tutte le piogge precedenti. Per capire la portata di questi eventi estremi vi porto un esempio, cioè in Thailandia, che è un paese formato da 17.000 isole, hanno deciso di spostare la capitale, Giacarta, 2.000 chilometri più a sud, nelle isole del Borneo, perché la capitale era ormai invasa dalle acque periodicamente, era piena di fango, insomma era in una situazione assolutamente invivibile per 30 milioni di persone, cioè la capitale più l'area metropolitana. Però questi l'unica cosa che hanno potuto fare è decidere di spostare la capitale. Quindi immaginatevi i costi, le difficoltà, eccetera. Soprattutto il baricentro del paese si sposta, perché le due località sono a 2000 km in linea d'aria. Poi all'inizio di gennaio negli Stati Uniti, a Denver e a Boulder, ci sono stati una serie di incendi che hanno distrutto oltre 1000 case, che però erano sepolte da 1,5 metri di neve. Ok, allora facciamo una prima pausa musicale. Allora, ritorniamo in voce dopo questa pausa musicale. Ci voleva un po', insomma, ci siamo rallegrati anche qui in regia. Poi ci hanno anche chiamato, una compagna ci ha chiamato anche per farci i complimenti per la scelta musicale, quindi adesso possiamo riaffrontare ancora temi pesanti, sebbene io ho appreso durante questa pausa che c'è un ballo molto interessante che dobbiamo considerare, il ballo Gerusalemme, giusto Alberto? Gerusalemme, okay, Gerusalemme. È un ballo di gruppo molto carino. Bene, quindi c'è questa canzone ci ha ispirato un po' di... Io sono in fase di addestramento, insomma. Comunque. E beh, insomma, da quello che mi hai detto è un ballo complesso, insomma, non è proprio... È un po' complesso, sì, però per te che sei un ballerino, facile, insomma... Va bene, torniamo seri. Bene, torniamo alle tutte queste orribili notizie. Ci sono i dati per l'epidemia di influenza aviaria che viene iniziata da uccelli migratori provenienti dall'ovest e che però in Italia ha causato l'abbattimento di 18 milioni tra polli e tacchini. E nel mese di gennaio c'erano 308 focolai di questa influenza. Si è parlato pochissimo di questa cosa. Se ne è parlato pochissimo, però quasi per niente. Cifre sono presi da altre cose. Altre cose, certo, però questa è... Io ho studiato un po' una questione che mi sembra importante, cioè non c'è ancora il passaggio, cioè ci sono dei morti per questo tipo di malattia, dei morti diciamo umani, però soltanto alcune centinaia di persone che però sono gli addetti alla tutela, diciamo all'alimentazione di questi polli. Quindi non c'è ancora il passaggio tra pollo e essere umano. E però questo tipo di influenza viene tenuta sotto controllo a livello del sistema sanitario internazionale, perché appena si dovesse verificare questo passaggio sarebbe l'inizio di un'altra epidemia. Quindi insomma è un argomento estremamente delicato e preoccupante. Invece tra Piemonte e Liguria sono stati segnalati dei casi di peste suina e tutte le zone infette sono state circoscritte, sono sotto controllo eccetera. Però è da ricordare che in Cina nel 2018 sono morti 3 milioni di maiali, quindi insomma anche questa è un'altra malattia molto pesante. Poi c'è la prima notizia, almeno tra quelle che ho trovato io, che una società norvegese, che però è di proprietà sia della Shell che della Total, della Equinor che della Norvegia, hanno cominciato a costruire dei depositi sottomarini di CO2. C'è questa storia della cattura della CO2. Di cui si era parlato anche a Glasgow. Di cui no? Se ne è parlato già a Glasgow e se ne sta parlando in Italia, perché l'ENI dice di stare studiando un intervento di questo genere a Ravenna. E insomma è un discorso estremamente... Questo è uno dei primissimi esempi, quindi questo norvegese. È il primissimo esempio che io sappia documentato di inizio lavori, diciamo, cioè che stanno proprio, hanno visto il sito e stanno intervenendo. In Italia invece c'è un altro, usano un'altra tecnologia, è diversa anche quella dell'ENI, che cerca di eliminare e di estrarre l'idrogeno dalla CO2, e c'è un impianto che deve essere realizzato vicino a Dalmine, però qui siamo ancora a livello di progetto, da Saipem, Tenaris e SIAD. Quindi anche in Italia c'è questa tendenza, diciamo, cioè l'industria sta cercando di avviare delle iniziative in questa direzione. Mi pare che le iniziative siano sempre, come dire, estremamente high tech e volte comunque a gestire un problema senza porsi mai, diciamo, senza mai mettere in discussione il tema del consumo, no? Questo lo confermo. Cioè, è un tentativo, di fatto è un tentativo di un utilizzo economico di un inquinamento, cioè, quindi c'è un interesse, quindi, perché poi sotto, nascosto, mai dichiarato, è una specie di senso di colpa per aver creato la CO2 prima tramite tutte le energie fossili, e l'idea che sono le stesse imprese che provano a catturare la CO2 e a bloccarla è una specie di rivalsa o di compensazione, eccetera eccetera. E tutto il discorso, appena lo guardi un attimo, è terribile, e però insomma ci stanno provando per l'ennesima volta. Poi c'è la notizia di questo, non so però quanto è ancora aggiornata, perché c'è una nave, una petroliera, che è stata abbandonata da parecchi anni nello Yemen, sulla costa dello Yemen, che ha a bordo 1,1 milioni di barili di petrolio. Se questa petroliera, dopo un certo numero di anni abbandonata in una secca, eccetera, dovesse aprirsi, e ci sarebbe un inquinamento di dimensioni assolutamente mostruose, però ancora nessuno fa niente per eliminare questo rischio. Tanto per capirci, in Perù nello stesso periodo sono caduti soltanto 6.000 barili in mare durante un trasbordo da una nave italiana a una nave locale. I 6.000 barili, che insomma è una quantità abbastanza contenuta, però hanno invaso 20 spiagge e 2 aree protette. Tanto per capirci, cioè appena cade in mare si diffonde rapidamente. Quindi questi erano 6.000, gli altri 1 milione, quindi per capire un attimo la proposta. Stavo cercando di far capire la differenza di questa, di dimensioni del meccanismo. Ed è rimasta lì così, no? Ne abbiamo parlato anche durante la rassegna stampa nelle scorse settimane di questa notizia, quindi perfetto. Penso sia ancora lì, poi è un po' che non mi aggiorno, però sì. Allora, poi ho fatto un elenco di meccanismi economici che inducono, che creano danni ambientali. Allora, è un po' più rapido il discorso. È per esempio, ci sono vari tentativi di ricoprire i ghiacciai con dei teli sintetici, di plastica, eccetera, che sono costosi, inquinano la neve e soprattutto riducono di poco lo scioglimento, che è meno del 30%. Quindi insomma continuano a fare questi esperimenti cercando il telo, il danno che fanno, eccetera, che eccetera, però i risultati finora non sono per niente incoraggianti. Poi ci sono dei dati, sono apparsi dei dati interessanti per il litio. Il litio è questa terra rara che serve, che adesso è ricercatissima, perché serve per le batterie delle auto elettriche, e quindi si prospetta un uso diffuso, ma anche per gli impianti solari e le reti energetiche, cioè in sostanza è un metallo. Comunque il litio, il litio è un metallo, il litio è un metallo, sì. No, non credo sia una terra rara, il litio penso sia un metallo molto malleabile. Comunque è vero che serve per le batterie, però, sì. Usatissimo per le batterie. Per le batterie, e anche per le batterie che servono per accumulare energia delle reti energetiche. Quindi, insomma, c'ha vari utilizzi. La metà dei giacimenti è in Cile, dei giacimenti mondiali, un quarto in Canada, il 16% in Australia, il 10% in Argentina. Però per la utilizzazione del litio è la Cina che ha il controllo del settore. Perché? Perché il 93% di tutto il litio che è stato utilizzato finora va in Cina perché la Cina ha gli impianti per la sua purificazione, lavorazione, trasformazione. E quindi, insomma, gli Stati Uniti, la Cina ce ne ha 93 e gli Stati Uniti ce ne sono 4 di questi impianti. E quindi finora la Cina è stata, controlla praticamente tutto il comparto, che è un discorso, e quindi infatti ha già cominciato a costruire degli impianti per costruire batterie che potrebbero costare a loro molto poco, eccetera. Poi c'è la notizia questa, da, come dire, abbiamo superato gli 8 miliardi di abitanti nel pianeta. C'è un centro che tiene in conto delle nascite, delle morti, eccetera, eccetera. Insomma, sembra che abbiamo superato gli 8 miliardi. Nel 2022. Inizio 2022. Inizio 2022. E questo quindi è importante il discorso. Poi c'è un altro dato su, per Amazon, che però, scusatemi, non è Amazon, è di Bezos, cioè il signor Bezos, il direttore, il presidente di Amazon, il che padrone. Però ha avuto un reddito di 81,5 miliardi di dollari in 21 mesi, nei 21 mesi della pandemia. Cioè, in sostanza, è uno di quelli che sta funzionando ai fini della, per fare i vaccini, per fare, cioè, fa tutto questo tipo, tutta la, il trasporto dei vaccini, eccetera, eccetera. Insomma, sta, è uno di quelli che ci sta guadagnando un sacco di soldi, cioè 81 miliardi in meno di 2 anni. E quindi, contemporaneamente, le 10 persone più ricche hanno raddoppiato sempre nello stesso periodo i loro patrimoni, quindi siamo tranquilli, e 163 milioni di persone sono finite sotto la soglia di povertà. Allora, io anche ho un dato, l'ho sì, letto, quindi adesso che ne stai parlando lo riporto. La ricchezza dei 10 più ricchi del mondo, no? Se noi pensassimo di ridurla, per esempio del 99,99%, quindi non del 90, non sì, del, sì, ma del 99,99%, dice, cavolo, rimangono poveri? No, rimangono più ricchi del 99% di tutti gli altri. Certo. Cioè, tanto per darci... Beh, certo, perché le cifre sono spaventose. Questi sono dei dati abbastanza... che circolano abbastanza, insomma, se ne ci trovano sempre. Allora, c'è un problema con la Cina per quanto riguarda le campagne di rimboschimento, perché il paese è famoso per avere massicce campagne per le foreste, eccetera, però contemporaneamente per la sua alimentazione importa il 60% della produzione mondiale di soia, e poi cifre più basse, ma molto elevate, di olio di palma e di polpa di cellulosa. Quindi, in sostanza, danneggia l'ambiente e in misura maggiore di quanto faccia facendo i rimboschimenti. È chiaro? Cioè, perché appunto olio di palma, polpa, eccetera, sono tutte sostanze che vengono coltivate tagliando le foreste. Allora sembra che la Cina cerchi di compensare, però in realtà, così come continua a aumentare la popolazione e continua a aumentare i bisogni di alimenti, non riesce a compensare in nessun modo. Quindi anche la Cina comincia a delocalizzare un po', come ha imparato da noi. No, non è delocalizzare, è nascondersi. Nascondere sotto il tappeto. Ha imparato anche di questo da noi, probabilmente. E come no? Però, insomma. Plastica. La plastica tenderà a prima raddoppiare e poi a triplicare. e ancora oggi solo il 10% viene riciclato. Quindi anche quando sentiamo le aziende che producono plastica e dicono sì, ma noi ricicliamo, e in realtà sul totale globale è meno del 10%. Poi, ultimo dato sempre del mese di gennaio, la survey di Spinetta Marengo vicino Alessandria in Piemonte continua a produrre prodotti chimici velenosi, c'era anche l'elenco ma non l'ho riportato, e in parte erano fertilizzanti, insomma prodotti chimici diciamo dannosi ma per l'agricoltura, e nella zona, cioè nella zona dove opera la Solvay, nel 2019 c'era il 19% in più rispetto alla media nazionale di casi di tumore. Ecco, questo tanto per essere chiari sulla... Sì, ma c'è una battaglia. Poi passiamo. Va bene. Allora facciamo un'altra pausa. Vediamo se riusciamo anche stavolta ad azzeccare. Eccoci allora di ritorno in voce per l'ultima parte di Entropia Massima di questa sera. Come annunciato all'inizio, abbiamo Vi abbiamo portato anche i dati aggiornati, no? Quindi Alberto, quelli... Sì, sono i dati per di febbraio. Non sono tutti quelli che avrei potuto far emergere, però ho preso quelli più importanti. E il primo è del primo febbraio, cioè in Africa c'è stata una mega tempesta che ha causato 450.000 sfollati e 90 morti. La tempesta si chiamava Ana, A-N-A. Quindi anche in questo caso, insomma, si tratta di un evento estremo per la zona. Poi in Piemonte, quindi questo è più a casa nostra, stiamo parlando del mese scorso, appena finito, abbiamo più 20 gradi come media, cioè, quindi siccome stiamo, per noi è inverno, però 20 gradi è molto alto, no? E questo è causato da un vento caldo che si chiama Fern, cioè scritto F-O, però O con due puntini sopra, o Favonio in italiano, che è più interessante. E la cosa importante è che il Po sta ai livelli minimi, cioè sta a meno 3, mi dice una fonte, un'altra fonte dice addirittura meno 5 metri, cioè esattamente quello che succede in agosto. Però siamo a metà febbraio, cioè il 2 di febbraio, no? Quindi stiamo in una situazione molto strana, diciamo, da questo punto di vista. Poi, per esempio, c'era un dato che noi negli ultimi due settimane fa è cominciato il freddo, eccetera. Però prima c'erano stati 80 giorni di siccità, no? Di cui nessuno ha parlato molto, eccetera, eccetera, che si sono stati interrotti solo pochi giorni fa. Quindi noi siamo, come posso dire, pienamente investiti da questo riscaldamento globale. È solo che ancora le notizie sui giornali, eccetera, o non appaiono, o vengono considerati dei casi strani, così, eccetera, come se fossero dei turbamenti momentanei, passeggeri del clima. E invece significa semplicemente che noi siamo allineati e coperti, no? In questo caso, dai meccanismi di riscaldamento globale, di cui però, ripeto, ancora non riusciamo a comprendere la portata. Perché...